TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Proseguono le indagini per stabilire le cause della morte del 72enne trovato senza vita in un lago di sangue nel suo appartamento nel rione di San Luigi a Trieste. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Auto contro un muro di cinta a Bagnari Arsa, un morto e un ferito, entrambi colombiani. Il conducente ha perso il controllo della vettura che è decollata schiantandosi sulla parete in cemento armato. Il GIP di Pordenone ha deciso il provvedimento di custodia cautelare nei confronti di due minori gravemente indiziati dei reati di rapina e furto aggravati. I fatti sono avvenuti nella serata dell'8 novembre. Crisi alla Schneider, annunciata la chiusura del reparto verniciatura, 28 gli esuberi previsti, per i sindacati si tratta di una decisione inaccettabile all'uscita a febbraio dei contratti di solidarietà, annunciato lo stato di agitazione. 4 mesi senza reddito d'inclusione, sospeso dall'INPS per accertamenti. Un pensionato minaccia gesti estremi, ma a risolvere la situazione ci pensa l'ADOC, l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Fine settimana con cielo sereno, poco nuvoloso, ma di notte al mattino possibili nebbie in pianura e localmente anche su altre zone. Bora dalla sera, sulla costa ne parleremo con il previsore dell'ARPA. A Gemona si apre una mostra dedicata ai Beatles in occasione dei 60 anni dell'unica tournée italiana. Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e da Daniele Letti, già a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 19 dicembre. In apertura, quindi, torniamo alla vicenda di cronaca avvenuta ieri nel rione di San Luigi a Trieste, dove all'interno della sua abitazione è stato ritrovato in un lago di sangue il corpo senza vita del 72enne Nicola Granieri. Presentava una ferita alla testa, potrebbe essere caduto, ma non si escludono altre ipotesi, compresa quella dell'omicidio. L'uomo lavorava nel settore dei comproro e anni fa era stato assolto dall'accusa di usura. È arrivata la scientifica per effettuare i rilievi in via Maclig 16 nel rione di San Luigi a Trieste, dove ieri è stato trovato il corpo del 73enne Nicola Granieri, riverso in un lago di sangue nel soggiorno del suo appartamento con una ferita alla testa. La scena di una caduta o, come appare sempre più probabile a chi indaga, di un omicidio. A far propendere per questa ipotesi la stanza messa a soqquadro e il passato dell'uomo, ritrovato cadavere da un conoscente che, a quanto sembra, era in possesso delle chiavi di casa. Noto nell'ambiente di chi scambia oro e gioielli, Granieri non aveva però un negozio, dunque è possibile che tenesse in casa le merci. 9 anni fa era stato accusato di usura, venendo poi assolto. Ieri 2 persone sono state portate in questura, ascoltati i vicini di casa. È passata anche la figlia di Granieri in lacrime. A colpire il luogo dove abitava l'uomo, un palazzo Ater, in una zona che alcuni residenti definiscono problematica. Granieri abitava al piano terra, ma lungo tutte le scale ci sono decine di macchie di sangue. Se siano legate alla morte di ieri, spetterà ai rilievi stabilirlo. Quello che è noto e che ci riferiscono i vicini di casa è che fino a qualche anno fa il palazzo era noto come supermercato della droga. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca con l'incidente mortale che è successo poco prima della mezzanotte a Bagnari a Arsa, in via della Villa. Il conducente di un'auto che procedeva a velocità sostenuta ha perso il controllo della vettura, che ha abbattuto un palo della luce ed è collata e si è schiantata contro la parte superiore di un muro di cinta in cemento armato, abbattendolo per poi finire la sua corsa a ruote all'aria in un cortile. 2 le persone a bordo, entrambe di origini colombiane. L'autista Niuvar Calao, di 36 anni, è morto sul colpo. Il passeggero, un 32 ha riportato ferite abbastanza gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Udine. Sul posto i vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 2 minori gravemente indiziati dei reati di rapina e furto aggravati. I fatti sono avvenuti nella serata dello scorso 8 novembre a Pordenone. Nei pressi dell'autostazione 3 giovani hanno avvicinato un 16enne e, minacciandolo, lo hanno costretto a consegnare loro una cintura, le scarpe di marca che portava e lo smartphone. Poco più di un'ora più tardi, sempre nella stessa zona, un 15enne era stato seguito da 2 coetanei, uno dei quali gli aveva puntato un coltello obbligandolo a consegnare una cintura e una felpa di marca. Dopo aver raccolto le denunce, i carabinieri di Pordenone hanno avviato le indagini, avvalendosi anche delle riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. E una settimana dopo i fatti, durante un controllo, hanno riconosciuto due dei presunti autori delle rapine, entrambi 17enni residenti in provincia di Udine. Uno di loro indossava ancora i capi d'abbigliamento sottratti alle vittime, ovvero le scarpe, la felpa e la cintura, capi poi riconosciuti dai legittimi proprietari. I due ora sono ristretti nel carcere minorile di Treviso in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Rinnovare gli impegni di riqualificazione industriale ed occupazionale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste. E questo è l'obiettivo dell'accordo firmato tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con altri enti, tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale con i porti di Trieste e Monfalcone. L'intesa intende promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al rafforzamento del tessuto produttivo locale, l'attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali. I programmi ammissibili alle agevolazioni dovranno prevedere la realizzazione di investimenti produttivi e o investimenti per la tutela ambientale, progetti di ricerca e o di sviluppo sperimentale, progetti per la formazione del personale, progetti di innovazione di organizzazione o di processo e programmi occupazionali volti al mantenimento o all'incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto degli investimenti stessi. Imprese, cooperative, consorzi e reti d'impresa costituite da un minimo di 3 e un massimo di 6 imprese potranno inviare le domande per l'accesso agli incentivi dal 26 febbraio al 23 aprile del 2026. Crisi alla Snaidero, annunciata la chiusura del reparto verniciatura, 28 gli esuberi previsti. Per i sindacati si tratta di una decisione inaccettabile all'uscita a febbraio dei contratti di solidarietà. Annunciato lo stato di agitazione. Sentiamo Massimo Minen, Fenalwil. Quando è prevista la chiusura del reparto verniciatura e quanti sarebbero gli esuberi? La chiusura c'è stata comunicata il 17 dicembre, la scadenza della solidarietà che sarebbe i primi giorni di febbraio. C'è stato comunicato che l'intenzione di fatto è di chiudere il reparto con il mese di febbraio. Poi magari ritarderanno qualche giornata, ma questa è l'intenzione dell'azienda. Quanti sarebbero gli esuberi? All'incirca una trentina. Però il problema reale qui non è la chiusura di un reparto. Noi da tempo chiediamo un piano industriale, un rilancio vero dell'azienda, cosa che invece non è avvenuta. Anzi, siamo in una situazione che è peggiorata in maniera evidente. Quest'anno i lavoratori hanno lavorato una media di 2-3 giornate, quando va bene, a settimana. E perciò i risultati non stanno arrivando. Chiediamo un vero piano industriale di rilancio di questa azienda, anche dopo l'entrata di Invitalia e Friulia, che hanno una parte consistente delle quote azionarie. Perciò chiediamo all'istituzione, abbiamo già chiesto alla Regione di convocare l'azienda su un tavolo, ritirare la dichiarazione di esuberi e metterci a discutere seriamente di un rilancio e di una tutela della totalità dei dipendenti di Snaidero Rino Spa, non solo di un reparto. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. I rappresentanti del Friuli Venezia Giulia e dei comitati contro la riforma dell'autonomia regionale differenziata hanno organizzato una manifestazione per questo pomeriggio alle 15 in piazza Oberdan a Trieste sotto la sede del Consiglio regionale. Al presidente dell'assemblea Bordin verrà consegnato un documento che denuncia le violazioni alle preintese con le quattro regioni del nord firmate dal governo il mese scorso e poi verranno consegnate anche le firme dei cittadini che hanno sottoscritto petizioni affinché le regioni non intraprendano alcun percorso volto ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, in particolare, la richiesta contestata è quella che riguarda la volontà di regionalizzare l'ufficio scolastico regionale. 4 mesi senza reddito di inclusione, sospeso dall'INPS per accertamenti. Un pensionato minaccia gesti estremi, ma a risolvere la situazione in estremis, appunto, ci pensa l'ADOC, l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori. Sentiamo la Presidente, Antonella Santarelli. Questo signore vive in una casa ATER, è indigente, non aveva più soldi né per pagare la spesa né per pagare l'affitto. Aveva scritto 14 volte all'INPS per sapere perché il suo assegno era stato sospeso, perché nella motivazione c'era scritto accertamenti e basta. Però nessuno gli rispondeva ed è un po' un problema che hanno tutti gli utenti nel parlare con l'ente, ma così anche i cittadini con le istituzioni o con le aziende, perché adesso ci sono i call center, i risponditori automatici, l'intelligenza artificiale, non riesce ad avere quel rapporto umano, quella spiegazione chiara e univoca, che non sia discordante. E quindi lui si è rivolto disperato a noi dopo aver fatto 2 tentativi, con l'INPS di riferimento, aveva scritto: guardate, non ce la faccio più, mi suicido. E l'INPS in questo caso gli ha mandato prima i vigili e poi i carabinieri, quindi sono stati solerti nello sventare questo dramma, però comunque la pratica non si muoveva. Quindi noi abbiamo scritto, abbiamo mandato un sacco di PEC, di mail, e nello stesso giorno, al pomeriggio, l'INPS ha risposto che la direzione aveva preso in carico la richiesta e che avrebbe fatto sapere al diretto interessato. Alla sera alle 20:30 l'INPS gli ha mandato il messaggino che la pratica era stata accolta e finalmente ieri, proprio alla vigilia delle feste, ha ricevuto l'assegno. E quindi questo signore adesso è contentissimo, però ci risulta che non sia il solo. Ci risulta che addirittura ci siano persone come lui, che quindi non hanno neanche una rete di sostegno, che aspettano da 8 mesi. È possibile? Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prosegue la collaborazione transfrontaliera avviata da tempo dalla chirurgia pediatrica dell'Istituto Materno Infantile Burlo Garofalo di Trieste con la vicina Slovenia e in particolare con il Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Universitario di Lubiana. I professionisti del Dipartimento di Chirurgia del Burlo, guidati dal dottor Jürgen Schleff, chirurgo di fama internazionale, portano nelle sale operatorie d'oltre confine l'esperienza maturata e nel contempo formano Trieste gli specializzandi sloveni grazie a stage della durata di 6 mesi. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla torna in piazza Trieste con un dolce dono, il pandottone. Acquistando le banchette di piazza Cavana, largo Don Bonifacio e via Dante, si potrà contribuire alla lotta contro una grave malattia che colpisce anche tanti giovani. 12:41, siamo al tempo, cielo da coperto a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 10 gradi e mezzo, a Pordenone 11, a Gorizia 9 e mezzo, a Udine 8 e mezzo, a Tolmezzo 6 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 6, a Tarvisio 5 e 5 decimi, a Piancavallo 4, a Sappada meno 5 decimi di grado, sul Monte Lussari 3 gradi, sul Monte Zoncolan 1, sulla costa a Grado 10 gradi, a Lignano 9 e mezzo. Sentiamo ora quale sarà il tempo previsto per il fine settimana, in cui ritornerà comunque il sereno e la tendenza fino a Natale, assieme al previsore dell'ARPA Marcellino Salvador. Per quanto riguarda il tempo nel weekend, direi che c'è un miglioramento in generale del tempo, anche su pianura e costa, in montagna il tempo è già migliorato nella giornata di oggi rispetto ai giorni scorsi, per cui prevalenza di cielo poco nuvoloso, senza nebbie, con un po' di borino sulla costa, quindi un tempo decisamente migliore per quanto riguarda le prossime 2 giornate. Invece, per quanto riguarda l'inizio prossima settimana, avremo un ritorno delle nubi, però solo nubi medie, diciamo, che non daranno nulla di particolare, se non un cielo coperto, per cui non avremo sole né lunedì né martedì. Ci sarà bora moderata sulla costa che si intensificherà la vigilia di Natale il 24, quando il cielo sarà probabilmente variabile. Un rinforzo ulteriore della bora potrebbe esserci appunto tra il 24 sera e Natale, in quel periodo lì, che potrebbe essere la caratteristica più importante della prossima settimana, quella appunto dettata dal ritorno della bora, una bora che valuteremo poi all'inizio, nei giorni di lunedì e martedì, se sarà molto forte o una bora, diciamo, normale con raffiche fino a 100 all'ora. Questo lo potremo stabilire appunto nei prossimi giorni. Per altri elementi significativi del tempo direi di no, salvo il fatto che lo zero termico finalmente si porterà con la prossima settimana a quote più basse rispetto ai 2000 metri, che è stata un po' la costante di questo periodo iniziale di dicembre fino alla fine della seconda decade, fino praticamente ad oggi. In ogni caso possiamo dire che non sarà Natale con la neve. Certamente non sarà un Natale con la neve su pianura e costa, no, potrebbe esserci una spruzzata in montagna, questo sì è possibile. Grado Impianti Turistici annuncia la riapertura della piscina termale, già operativa da qualche giorno, e l'avvio della stagione invernale, in programma da oggi al 6 gennaio sulla spiaggia della località balneare, che sarà trasformata in un bosco di abeti illuminati dalle 11 al tramonto, sull'avvenire antistante al bar numero 1, allestimenti a tema attività dedicate ai bambini, spazi per il relax, tra cui una sauna a legna, 2 vasche idromassaggio e dei lettini con coperte per godersi l'atmosfera del mare d'inverno al riparo dal freddo. Inaugurazione ufficiale prevista oggi alle 16:30. Nonostante all'epoca i giudizi di molti intellettuali furono in molti casi scettici, i Beatles hanno segnato un prima e un dopo nella storia della musica, ma anche più in generale della cultura del costume. La Cineteca del Friuli dedica loro l'apertura del nuovo spazio della Galleria della Cineteca, con una mostra dal titolo Help 1965 arrivano i Beatles. In occasione dell'inaugurazione, prevista oggi alle 17.30 nello spazio di Via Bini 14 a Gemona, della mostra che è curata da Fulvio Toffoli, ci sarà un concerto gratuito della band vicentina Fourback, che riproporrà la scaletta dei concerti dell'unica tournée italiana dei Beatles nel 1965, mentre il giornalista e critico musicale John Vignola racconterà l'impatto che il loro arrivo ebbe sull'ambiente non solo musicale italiano. Nell'estate del 1965 il tornado Beatles arrivò in Italia. Per John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, i quattro ventenni più famosi del mondo, fu la prima e unica tournée italiana. Quattro giorni indimenticabili da Milano a Roma, passando per Genova. Una mostra dedicata a questa tournée a cura di Fulvio Toffoli inaugura oggi a Gemona, in via Bini, il nuovo spazio espositivo della Cineteca del Friuli. Ed è proprio della Cineteca il nucleo centrale della rassegna, una serie di scatti inediti rubati a margine del concerto di Milano del 24 giugno da un fotografo dilettante. A ricostruire il clima di quegli anni, molta stampa d'epoca, dove spiccano le firme di Gianni Minà e Dario Argento, giornalista in erba, non ancora diventato il maestro dell'horror che conosciamo. Nella rassegna anche copertine originali dei loro 45 giri, gadget che vennero distribuiti in occasione dei concerti italiani, libri rari, manifesti e la proiezione di due film che videro protagonista la band, A Hard Day's Night e Help del 1965. La mostra, che si intitola Help 1965 arrivano i Beatles, si inaugura alle 17.30 con un concerto gratuito della band vicentina Fourback, che proporrà brani dei Beatles composti tra il 1963 e il 65, alcuni dei quali eseguiti durante i concerti italiani. All'inaugurazione interverranno il critico musicale John Vignola e il collezionista Domenico Gavella, che oltre a prestare alcuni cimeli d'epoca fu testimone del mitico concerto milanese. La mostra resterà aperta fino al 6 aprile. E continuiamo... Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Continuiamo a parlare dei cosiddetti scarafaggi, perché furono appunto 8 i concerti dei Beatles nella loro tournée, passarono Milano, Genova e Roma, come abbiamo sentito. Qui però il concerto venne sospeso a causa di un episodio curioso. Un uomo salì sul palco e rubò il cappello a John Lennon mentre stava suonando. A questa vicenda lo scrittore Giulio Fabroni ha dedicato addirittura un romanzo dal titolo Beatles. Lo abbiamo intervistato. Capelloni che suonavano musiche strane. I Beatles, al loro arrivo nell'unico tour in Italia nel 65, non furono capiti davvero. Venivano guardati con un misto di sospetto e timore e il seguito popolare non fu grandissimo, come spiega il critico musicale John Vignola, presente all'inaugurazione della mostra di Gemona dedicata al quartetto di Liverpool e curata da Fulvio Toffoli. Non ci fu quello che noi oggi immaginiamo un tutto esaurito. Ci fu molta attenzione dei mass media, ma fu una tournée che non faceva presagire assolutamente quello che poi sarebbero stati anche i Beatles in Italia da lì a pochissimo. Altra cosa invece fu l'entusiasmo dei fan, che fu assoluto, soprattutto tra i più giovani. Si appostavano sotto gli alberghi, urlavano durante i concerti. All'epoca, tra l'altro, un concerto di qualsiasi gruppo, Beatles inclusi, era un inferno per i musicisti, perché non esisteva ancora la possibilità di sentire la propria musica attraverso i monitor. Concerti chiassosi e soprattutto brevi, non duravano più di mezz'ora e nella stessa giornata se ne facevano uno al pomeriggio e uno alla sera. Ad accompagnarli anche artisti italiani come Fausto Leali, che aprì 3 tappe del loro tour, ma anche Peppino Di Capri e personalità oggi meno conosciute come Guidone e New Dada. Sotto al palco le scene di isteria delle ragazze, che erano affascinate da uno in particolare. Amatissimo Ringo e John, un po' meno forse Paul McCartney e George Harrison all'epoca. Nonostante la stima dei musicisti, come compositore Luciano Berio, la critica musicale dell'epoca fu ostile al fenomeno. Memorabile una stroncatura inappellabile del nostro più grande critico musicale legato al jazz, Arrigo Polillo, che disprezzava proprio letteralmente, oppure anche la distanza siderale che Pierpaolo Pasolini sottolineò nei confronti dei quattro. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Continuiamo con la cultura, la guerra vista e fotografata dai grandi fotoreporter della celebre agenzia Magnum, un repertorio di oltre 200 scatti, da quelli celeberrimi di Robert Capa dello sbarco in Normandia a quelli di George Roger che documentano la liberazione dai campi di concentramento. Saranno visibili da domani a Gorizia, a Palazzo Attems, nell'ambito della mostra Back to Peace, che sarà inaugurata invece ufficialmente questa sera alle 18. Compie 17 anni, Pordenone Scrive, la scuola di scrittura di Pordenone Legge. Dal 5 febbraio al 5 marzo riapre i battenti con grandi voci letterarie del nostro tempo che si avvicenderanno per 30 giorni avventurosi attraverso i sentieri della scrittura creativa, esplorando aspetti avvincenti dello storytelling, dai cattivi che fanno ridere alle donne fatali. Gli scrittori Chiara Valerio, Loredana Lipperini, Giampaolo Simi e Gianmario Villalta si alterneranno nelle lezioni frontali insieme all'autore e curatore di Pordenone Scrive, Alberto Garlini, per un intenso corpo a corpo con la scrittura attraverso un progetto che vuole innescare stimolanti interazione fra docenti e corsisti, analizzando gli elaborati dei partecipanti durante i laboratori con la collaborazione di tutta l'aula. Altri appuntamenti, cronache da un paese interrotto, diario di un prof in Palestina e il racconto in prima persona di un docente italiano in Palestina che documenta le continue violazioni del diritto internazionale da parte di Israele in Cisgiordania e Gaza prima e dopo gli attacchi del 7 ottobre. A narrarlo Roberto Cirelli, fino al 2024, lettore di italiano all'Università Palestinese di Birzeit, che presenterà il libro questa sera alle 18.15 a Trieste alla Casa del Popolo di Ponziana. La cantautrice friulana Nicole Coceancig presenta questa sera al pubblico di Cervignano il suo ultimo lavoro, Zora, un concept album in cui racconta la storia di una ragazza 14enne che fugge dal Pakistan per inseguire il sogno della libertà e dell'emancipazione. Il concerto alle 20.45 al Teatro Pasolini. Un omaggio ai cantautori del periodo tra gli anni 70 e 90 con una decina di celebri brani del cantautorato italiano riarrangiati dal maestro Valer Poles a interpretarli il Pordenone Vocal Ensemble alle 21 al Teatro Pileo di Prata di Pordenone. Il Free Voices Short Choir porta in scena questa sera il concerto spettacolo La Cena di Natale, un recital con adattamenti musicali di Gianni Del Zotto e coreografia di Marco Rigamonti, all'Auditorium di Emoz di Porcia alle 21. E dopo la tappa di ieri a Cormons, seconda data regionale per il New York City Gospel Choir, il principale coro contemporaneo della Grande Mela alle 20.45 al Teatro Odeon di La Tisana. La compagnia Playback Theater del Friuli Venezia Giulia presenta questa sera lo spettacolo interattivo Storia di regali donati e ricevuti al Teatro Basaglia di San Giovanni a Trieste alle 20.30. Un viaggio nelle canzoni di Natale a partire degli anni 20 del Novecento, It's Christmas Time, il concerto spettacolo di Chiara Lopresti in arte Claire D, cantante e attrice siciliana ma sanvitese d'adozione, in scena oggi all'Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento alle 20.45. La Corale Casarsese propone oggi il suo tradizionale concerto di Natale con l'organista Tommaso Del Ponte e la soprano Giulia Della Peruta nella chiesa parrocchiale di Santa Croce a Casarsa alle 20.30. E concerto di Natale anche per la Corale Seghizzi con un programma che spazierà dai brani classici natalizi di Brahms e Bach ad altri più contemporanei alle 18 nella chiesetta della Beata Vergine Immacolata di Via Garibaldi a Gorizia. Il concerto del gruppo musicale Sintier, previsto questa sera alle 20.30 ad Hangar Theatre a Trieste, è stato invece annullato, lo ha comunicato l'organizzazione. Vivere insieme la magia delle feste riscoprendo antiche tradizioni per ricordare che il Natale è prima di tutto un tempo di condivisione. Questo l'obiettivo del laboratorio sulle tradizioni natalizie slovene dedicato ai più piccoli organizzato dall'associazione culturale multilinguistica Kulturhaus Gorz. L'attività è in programma oggi alle 16 nella sede di Via Rastello 38 a Gorizia. E ora prima di chiudere diamo spazio a un comunicato sindacale. Questo è il primo comunicato sindacale di Unirai, Liberi Giornalisti Rai. Il sindacato, attivo da 2 anni, ha ottenuto il pieno riconoscimento dell'azienda al termine di un percorso serio, coerente e trasparente, anche in attuazione di una recente sentenza della Corte Costituzionale sul pluralismo sindacale. Crediamo in un servizio pubblico moderno e competitivo che non può prescindere dalla tutela di chi ogni giorno lavora per garantire informazioni di qualità. Unirai ha aderito al recente sciopero nazionale della categoria per il rinnovo del contratto nazionale scaduto dal 2016. Al centro della nostra azione sindacale restano anche il rinnovo del contratto integrativo RAI, fermo da oltre 12 anni, e il superamento di ogni forma di precariato che continua a coinvolgere troppi colleghi impegnati nei programmi di informazione. E alle 12.54 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Letti e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il GR, come di consueto, alle 15. Grazie dell'attenzione e buon weekend. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.